Il teatro delle celebrazioni quest'anno ti porta dove vuoi tu? Porta lo spettatore altrove, altrove in un viaggio. È un viaggio, sarà un'andata, sarà un ritorno, sarà un viaggio, sarà un incontro con uno specchio, non lo sappiamo. Sappiamo che saranno 54 gli spettacoli di questa nuova stagione, che confermano ovviamente una grande attenzione da parte del pubblico di Bologna, ma non solo, alla nostra programmazione. Lo faremo ovviamente attraverso i grandi personaggi della prosa contemporanea che abbiamo presentato a giugno, lo faremo attraverso la danza, con grandi interpreti, ci sarà una compagnia giapponese, El Squad, che sarà con noi a febbraio, tornerà Daniel Ezralov. Lo faremo anche attraverso degli spettacoli conferenza, con un grandissimo autore, Paolo Crepé, il professor Crepé, il professor Galimberti, che coinvolgeranno il pubblico in questa narrazione dei loro saggi, che sono dei veri e propri best sellers. E poi dopo un'attenzione ai più giovani. Il teatro Celebrazioni ovviamente è un teatro che, diciamo sempre, vive la contemporaneità, è un teatro che è intrinseco, la sua storia, la sua vocazione è essere all'interno dei linguaggi contemporanei, e non poteva mancare i grandi personaggi della stand-up comedy che si sta, insomma, che è esplosa negli anni post-Covid, quindi grandi interpreti come Kemi Hawke, come Luca Ravenna. Sentite, stiamo provando in questo momento, quindi il pubblico vive con noi l'emozione della conferenza stampa. Questo e tanti e tanti altri, ovviamente sempre con una chiave rivolta al divertimento e alla leggerezza. Che cosa c'è per i più piccoli? Beh, per i più piccoli c'è una chicca. Gli spettacoli per i più piccoli, ci sarà un evento organizzato in collaborazione col Baby Bo Festival, che è La Bella Addormentata nel Bosco, e poi ci sarà Peter Pan in una chiave molto surreale in occasione delle festività natalizie, e poi un grandissimo spettacolo da un'idea di Gigi Proietti, che è Pippi Calzelunghe in musical. Questo è stato uno degli ultimi spettacoli su cui lui ha prestato l'attenzione prima di scomparire. Sorridere è sempre molto importante. Il Teatro delle Celebrazioni che cosa offre per questo, chiamiamolo, settore? E come dicevo prima, insomma, ci sarà un settore dedicato, una vera e propria rassegna dedicata alla stand-up, e anche un'altra dedicata ovviamente alle star del web credibili, che chiaramente hanno intrapreso un percorso all'interno dei più importanti palcoscenici italiani. Ci sono alcuni artisti che non abbandonano il Teatro delle Celebrazioni, che ogni anno comunque, bene o male, si ripropongono. Beh, ci sono gli amici del Teatro delle Celebrazioni, che è un po' anche quello, è l'affiatamento anche che ci riconosce il nostro pubblico, come dicevo prima, quindi Silvio Orlando, Vincenzo Salemme, Angela Finocchiaro e tanti tanti altri che, insomma, ci accompagneranno in questi 54 spettacoli da ottobre fino ad arrivare a maggio. Quando si alza il sipario? Il sipario si alza a inizio novembre, ma prima, e lo vedrete tra poco durante la conferenza stampa, ci sarà una grande novità dal punto di vista della ristrutturazione dell'efficientamento energetico che il teatro sta facendo in questi mesi.